Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Chianti Classico, la storia di un vino che compie 300 anni attraverso il suo consorzio, di Alessandra Tedesco. Si fa presto a dire Chianti. È uno dei nomi di vini più conosciuti al mondo, eppure molti non sanno che c'è una differenza tra Chianti Classico e Chianti. Il Chianti Classico compie nel 2016 ben 300 anni e fin dalle origini si è cercato di segnare i confini del territorio di produzione e le regole, come racconta Giuseppe Liberatore, direttore del consorzio Chianti Classico. Questi 300 anni sono un grande valore, un grande vanto, perché devo dire che significa che c'era lungimiranza. Ci tengo a ricordare che nel 1716 Cosimo III, che era un granduca, sentì l'esigenza di circoscrivere, quindi di mettere dei confini intorno ad una zona, ritenendo questa zona una zona particolarmente eletta per produrre vini. Quindi la possiamo definire una sorta di doc ante litteram, ok? Oltre questo, leggendo un po' di storia, perché poi mi sono incuriosito rispetto a questo aspetto, 2 mesi prima era stato fatto un altro bando, altrettanto importante, dove si erano stabilite le regole di produzione, una sorta di disciplinare addirittura. E sono andato ancora un po' più dietro e ho capito la motivazione, perché all'inizio del Settecento la Toscana era la repubblica che riusciva a fornire i vini in Inghilterra, perché gli spagnoli erano in guerra, i francesi idem, eccetera. Per cui venne fuori questa grande propensione già da allora ad esportare questi vini. Nel 1710-12 molto probabilmente ci fu uno scandalo, che è una frode che fecero i toscani, per cui Cosimo, preoccupato del fatto di perdere questo flusso, diciamo, di esportazione, disse: no, qui dobbiamo mettere delle regole. Per cui da quello nacque sia il bando dove vennero stabilite le regole di come doveva essere prodotto questo vino, e il secondo, quello dove stabilì i confini da dove questo vino proveniva. La zona di produzione del Chianti Classico è dunque ancora ben delimitata tra le province di Firenze e Siena. Per difendere il prodotto, negli anni 20 è nato il consorzio, che oggi comprende 580 soci. Di questi, 350 seguono tutta la filiera. Si tratta cioè di aziende che coltivano, vinificano e imbottigliano. Gli altri producono invece Chianti Classico sfuso, che viene imbottigliato da terzi. Il consorzio è il consorzio più antico d'Italia. È nato nel 1924. 33 produttori si misero insieme per un motivo ben preciso, per difendere l'identità di un nome. La motivazione è che all'inizio del secolo scorso, essendoci una grande richiesta di prodotto Chianti, che è, allora si chiamava Chianti perché proveniva dalla nostra area, l'offerta non riusciva a soddisfare la domanda. Per cui si iniziò a produrre del vino all'uso del Chianti, al di fuori del territorio di produzione. E questo naturalmente creò sconcerto e problemi nei confronti dei veri titolari di questo nome, i quali, volendosi difendere, formarono un consorzio che allora chiamarono il consorzio del Chianti e della sua marca di origine, identificando come marchio di questa denominazione il Gallo Nero. Dopo 8 anni di seggiolate, ho letto qualche atto di qualche riunione molto animata, alla fine nel 1932 si arrivò ad un decreto ministeriale che tracciò i confini di quello che oggi è il Chianti Classico e aggiunse questo aggettivo classico alla zona di origine più antica, che si chiamava Chianti. Quindi gli aspetti importanti per far capire al consumatore sono che da un lato c'è la geografia e da un lato c'è l'enologia. Geograficamente questo territorio si chiama Chianti, ma in questo territorio si produce solo ed esclusivamente il Chianti Classico. Il vino Chianti invece si produce in quasi tutta la Toscana, ma non in questo territorio. Il consorzio Chianti Classico ha da poco avviato con l'UNESCO le procedure per il riconoscimento come patrimonio dell'umanità. Come distinguere una bottiglia di Chianti Classico da una di Chianti, composti anche da diversi tipi di vitigni, lo spiega ancora il direttore del consorzio, Giuseppe Liberatore. Prima di tutto, in etichetta per legge è riportata la denominazione. La nostra denominazione è Chianti Classico, quindi nelle etichette o in quella frontale o nella retro c'è per forza scritto Chianti Classico. Ma l'elemento distintivo e unico è il marchio. Il marchio del Gallo Nero, che è il marchio di cui può fregiarsi esclusivamente la produzione di vino Chianti Classico, può essere posizionato in due posti, o sul collo della bottiglia o in retroetichetta. Ci sono diverse differenze che poi chiaramente ne determinano anche la diversa percezione da parte del consumatore e soprattutto del mercato. Prima di tutto abbiamo delle composizioni di vitigni diversi. Nel nostro caso noi abbiamo almeno l'80% di Sangiovese e il rimanente 20% possono essere solo vitigni a bacca rossa. Mentre per i Chianti esiste, oltre il Sangiovese al 75%, anche altri vitigni rossi e anche bianchi, e questa è la prima differenza sostanziale. Poi altra differenza sostanziale sono le cosiddette rese per ettaro, cioè nel senso che nel nostro caso abbiamo la resa più bassa in assoluto a livello nazionale, che è 75 quintali di uva ad ettaro, che corrispondono a circa 52,5 ettolitri di vino, mentre già sul Chianti si superano i 100 quintali di uva ad ettaro, quindi già questo è un'altra differenza sostanziale. Poi esistono i diversi sesti di impianto, cioè c'è una serie di elementi tecnico-agronomici che di fatto determinano una differenza sostanziale da questi due prodotti. Ogni anno vengono prodotte 35 milioni di bottiglie di Chianti Classico esportate in 50 paesi del mondo. Fin dall'inizio della sua storia, questo vino ha avuto una vocazione all'export. Noi esportiamo circa l'80% della nostra produzione. Abbiamo continuato comunque a lavorare bene anche sul mercato italiano, perché noi riteniamo che non si possa fare una buona politica commerciale se non si tiene ben saldo il posto da dove si viene, in poche parole. E quindi quest'anno ci tengo a dire che c'è un'inversione di tendenza anche sul mercato nazionale, siamo ritornati al 20, eravamo scesi al 18%. Per quanto riguarda invece l'export, i mercati che ci hanno sempre visto in prima linea e ci hanno dato grandi soddisfazioni sono soprattutto i mercati nordamericani. Canada e Stati Uniti per noi rappresentano il 41% della nostra produzione, e abbiamo continue espansioni, perché stiamo parlando di un continente, non di un paese. Quindi devo dire che il mercato americano è un mercato, per esempio, che è molto recettivo. C'è un consumatore molto attento che sa apprezzare i vini, la qualità, e quindi sa anche pagarli. La produzione di Chianti Classico non può essere aumentata. Per questo le aziende puntano a migliorare la qualità, così come a creare strutture per l'ospitalità che attirano i turisti enogastronomici italiani e stranieri. Noi abbiamo un patrimonio vitato chiuso, cioè in questo momento non si può aumentare, non si può piantare più un ettaro di Chianti Classico, e abbiamo un sistema di verifica triennale di questa situazione, cioè ogni 3 anni noi ci riuniamo con la filiera e dimostriamo se esistono o meno le condizioni per implementare i nostri vigneti. Questo perché? Perché oggi questo è un sistema che si basa su un equilibrio molto delicato. Quindi noi abbiamo bisogno ogni 3 anni di valutare se esistono queste condizioni, se non esistono stiamo fermi come stiamo. Per aumentare la redditività dobbiamo lavorare sulla qualità. È quello che abbiamo fatto, per cui oggi abbiamo dei margini più alti rispetto al passato che ci consentono di reggere soprattutto con i bilanci, ma nello stesso tempo di avere dei prodotti di altissima qualità che cresce sempre di più e che è apprezzata sempre di più. Dalla nascita del consorzio Chianti Classico ci sono stati diversi punti di svolta nella storia di questo vino. Nel 67, con la prima riconoscimento della DOC Chianti Classico, poi nel 1984 con il riconoscimento della DOCG Chianti Classico, e poi soprattutto nel 96 il Chianti Classico ottiene una autonomia dal Chianti, cioè già allora ha avuto la possibilità di decidere autonomamente il proprio destino, fino al 2006 quando c'è stato il cosiddetto distacco. Cioè oggi Chianti e Chianti Classico sono due denominazioni distinte, benché cioè il territorio del Chianti Classico sia dentro quello del Chianti, Oggi nell'area dove si produce Chianti Classico non si può produrre Chianti e quindi non c'è nessuna possibilità di travaso fra le due denominazioni. Sono due denominazioni che fossero Barolo e Barbaresco, Barbera o altro. Un momento di difficoltà si è avuto anche negli anni Ottanta, quando negli Stati Uniti è stata avviata una causa contro il Chianti Classico. Lo racconta il direttore del consorzio, Giuseppe Liberatore. Nel 1988 abbiamo avuto una causa negli Stati Uniti con la famiglia Gallo, che aveva chiesto il fatto che noi non potevamo usare la parola Gallo, non il marchio, la parola, in quanto era stata da loro registrata negli Stati Uniti. Quindi potete immaginare, ci sono stati 4 anni di cause e purtroppo negli Stati Uniti questa cosa non è andata bene. La Gallo ha vinto la causa e quindi noi ancora oggi non possiamo usare la parola Gallo al di fuori del territorio nazionale. Nei paesi esteri noi traduciamo le parole Gallo Nero nella lingua corrispondente. Usiamo Black Rooster negli anglosassoni, Coq Noir in Francia, Schwarzerhahn in Germania, però ecco, alla fine stiamo parlando di una roba di 26 anni fa, 24 anni fa, quindi insomma ben ampiamente superata. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.